24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Il patto del Nazareno, così come l'avevamo interpretato fino ad oggi, noi lo riteniamo rotto. Voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Noi le riforme appunto siamo intenzionati a farle, le faremo ovunque, se Forza Italia non le vuole più fare, le faremo senza Forza Italia. Una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora, un errore perfetto, un diamante, un difetto. Senza di noi Renzi non sarebbe andato da nessuna parte, l'abbiamo salvato una decina di volte, dicono Berlusconi furioso, e ne abbiamo ben donde. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato. Assistiamo al solito teatrino, questo patto del Nazareno è un patto comunque perennemente in piedi. Io credo che oggi non si sia rotto il patto del Nazareno, semmai si è rotta Forza Italia. Noi non aspettiamo le correnti del PD, figuriamoci se possiamo permetterci di aspettare che le correnti di Forza Italia si mettano d'accordo. Voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna. Ma insomma, ma questa limonata, come la chiamano al Foglio, questa limonata Renzi-Berlusconi va avanti, prosegue, è rotta, è sospesa, il Nazareno risorge, non risorge, il Nazareno muore definitivamente. Questa sarebbe una notizia che è incredibile da 2000 anni a questa parte, ma... Che succede? Che succede? Raccontano così al Corriere della Sera che Berlusconi in realtà non abbia mai pronunciato la frase "il Nazareno è rotto", il patto del Nazareno è rotto, e quindi non avendola detta Berlusconi dalle sue labbrucce, questa cosa vuol dire che si può parlare, dire rotto e sospeso, ma in realtà non è rotto veramente. Baciami ancora, baciami ancora. Il più terribile, come sempre, il Monello Renzi, che racconta Repubblica avrebbe detto ai suoi: quello che non sono riusciti a fare in 20 anni i girotondini l'ho fatto io in un anno. Dilaniare Forza Italia. Renzi ci mette sempre proprio quella coda di veleno fiorentino che, come dire, funziona benissimo con lui. Allora, questo è 24 mattino, sono le 6:31 minuti, è molto presto, e qui dobbiamo dire, tra l'altro, sta succedendo una cosa cross mediale di quelle incredibili, cioè mentre io vi parlo c'è una persona che mi sta filmando. Mamma mia, tra poco sveleremo tutto, cioè io sono qua. Come gli ho detto già, uno fa la radio per non fare la TV, per non farsi vedere come conciato a quest'ora, e ti vengono a riprendere, vabbè, ti vengono a riprendere, ti saluto mentre lo dico in radio. Intanto saluto anche Lorenzo Nespoli in redazione mentre si apre il Parlamento. Vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Vabbè, dopo il caffè della Boschi saluto Lorenzo Nespoli, come detto in redazione, il nostro Carmelo Lauricella in regia, l'alpino che abbiamo fatto, Peter Biscapello, abbiamo allettato, è sdraiato, in che senso? Si può essere sdraiati per vari motivi. No, c'ha la febbre, mi dicono, ha la febbre, l'alpino ha la febbre. Va bene, allora io intanto saluto Alessandro Robecchi, che è giornalista, autore televisivo, scrive sul Fatto Quotidiano. Buongiorno, è interista, insomma, li ha tutte: Fatto Quotidiano, interista, comunistone, doc, comunistone. Tutte io, sì. Hai detto cross-mediale. Cross-mediale, ti piace? Adesso ti spiego perché. Sarebbe abbastanza per fare sciopero, mettere giù il telefono, potresti, però va bene. Potresti mettere giù il telefono così, va bene. Ti perdono. Ti devo spiegare tutto, perché intanto saluto il direttore di affari italiani.it, Angelo Maria Perrino. Buongiorno direttore. Eccomi, buongiorno. Cominciamo con il Nazarotto, mi pare. Sì, va bene, ma adesso però te lo rifaccio. Buongiorno direttore. Ciao, buongiorno a tutti. No, te lo rifaccio ancora perché adesso guardo in telecamera. Buongiorno direttore. So che lì c'è qualcuno di Affari Italiani che è venuto a fare un po' il cross mediale. Sì, mentre io vi parlo, cari ascoltatori, devo spiegarvelo perché la radio non si vede. C'è Andrea Radic qui di affariitaliani.it che vi sta filmando. Che ne farete poi, Andrea? Buongiorno Andrea. Buongiorno a te, Alessandro. Metterete su Affari Italiani. A tutti, certo, su Affari Italiani inizia il viaggio nella radio. Va bene. Allora, Perrino, mi hai mandato i tuoi ambasciatori qui. Vogliamo farti vedere, faccela vedere. Va bene. Allora, la tua voce oramai ha superato è noiosa, la tua danza mattutina. È tempo che i vostri lettori e radioascoltatori ti percepiscano anche ti come entità fisica, per riconoscermi e darmi tante saccagnate, come si suol dire. Allora, caro Robecchi, grande amico di Renzi, Robecchi è grandissimo amico di Renzi, il nostro Robecchi, grande sostenitore. Hai sentito? Tu eri un girotondino. No, ce l'hai fatta a fare quello che ha fatto Renzi in un anno. Devo dire che la notazione girotondini è un'ottima archeologia politica, perché chi se li ricordava? Ma era partito da Nanni Moretti, vi ricordate Nanni Moretti? C'era Pancio Pardi. Sempre le dichiarazioni sono si bilanciano, sì. Perché uno dice io sono riuscito a fare quello che i girotondini non sono riusciti a fare, e in compenso vedo un virgolettato nel pezzo del Corriere oggi degli amici di Berlusconi che gli dicono: ha fatto più questo governo per le tue aziende che i tuoi ministri quando governavi tu. Ma cerchiamo la verità nel mezzo, Mila. Ci sono dei governi cross mediali, direi. Molto cross mediali. Però insomma bisogna capire. Allora, caro direttore, qui che succede? Intanto il patto del Nazareno è rotto, il Nazareno risorge, come insegna la storia, non risorgerà più. Che succederà a questo patto? Potremmo dire che c'è buio fitto su Forza Italia. C'è buio fitto, mi sembra. Ma dove vuole andare Fitto, direttore? Ma dove vuole andare Fitto? Quanti voti ha Fitto? Insomma, Fitto direi che ha portato a casa un risultato importante, cioè la linea di Forza Italia, quella di uscire da questo incesto destra-sinistra, e sembra realizzarsi. Anche se all'interno ci sono appunto delle divisioni, le più importanti da far risalire alle esigenze di stabilità del partito Mediaset, che attraverso Confalonieri, attraverso i figli di Berlusconi, suggerisce, anche attraverso Ennio Doris, presidente di Mediobanca, suggerisce molta calma, molta responsabilità, una linea Marina che chiama il papà, gli dice papà. Però è fantastico, ma non è che Robecchi, non è che abbiamo scoperto adesso nel 2015 che forse esiste allora il conflitto di interessi? No, nel senso perché voglio dire, anche l'onorevole Bianconi, che adesso è uno che contro Berlusconi dice tutto, ai giorni scorsi ci ha detto: ma io non lo sto dicendo, però il fatto che Confalonieri, Marina trattino, non so, forse c'è sotto qualcosa, forse. Non lo dico, però faccio uno più uno, cioè, ma sì, è che quando le due grandi linee ideali della destra italiana convergevano, cioè Forza Italia e le aziende di Silvio, andava tutto bene. Quando queste due cose incominciano a divergere, quelli si disfano. Però la domanda, Perrino, te la rifaccio: e Berlusconi chi ascolta? Le ragioni della politica, le ragioni dei figli, le ragioni dell'amico Confalonieri, le ragioni del portafogli, le ragioni degli affari, cosa fa? Berlusconi, avendo assommato su di sé queste tre anime, no? La politica, il potere finanziario e il potere mediatico, in questo intreccio senza precedenti nel mondo occidentale, caracolla tra l'una e l'altra delle istanze, cercando di tenerle insieme, perché l'essenza del suo essere in politica sta proprio nel combinato disposto di quei tre fattori. Dunque lui è prigioniero di queste diverse anime, cerca di farle stare insieme, ma è il Nazarotto, cioè si è rotto. Il Nazarotto si è rotto. Fino alla prossima puntata. Però visto, esatto. visto che hai citato Fitto, eccolo qui, a grandissima richiesta del direttore di Affari Italiani Perrino, Fitto. Chiedo l'azzeramento di tutte le cariche che attualmente ci sono e successivamente un sistema dal basso, congresso primario, discuteremo di questo, che possa mettere in campo gente che abbia un riscontro in funzione dei territori e non gente che venga nominata senza avere la capacità di svolgere questa funzione. L'azzeramento delle cariche, Robecchi, una cosa... No, ma soprattutto il movimento dal basso fa ridere, perché l'azzeramento perché delle adesso cariche, guardalo qui il comunistone di sinistra, no, che solo a sinistra possono fare i movimenti dal basso. Milan, però obiettivamente stiamo parlando di una forza politica che in 20 anni non ha mai fatto un congresso. Questo è vero, ne ha fatto uno solo per mandare via Fini. Stavolta c'è uno, Fitto, che dice appunto facciamo le cose dal basso. Diciamo che bisogna incominciare a costruire una tradizione di partecipazione dal basso nella destra italiana, e quindi circa nel 2064 forse avremo una tradizione di partecipazione dal basso. Se ti sentono quelli del Movimento 5 Stelle parlare di congressi, dibattiti, che roba orribile. Possono sempre consultarsi in rete, diciamo. Si consulta in rete, è più facile. Sì, più, credo che l'età media dell'elettorato di Forza Italia sia ancora la calcolatrice Olivetti, però si può sempre insegnargli. Vabbè, insomma, siamo al razzismo anagrafico, Perrino. Basta guardare le cose come stanno, dai. Vabbè, questa la twittiamo tra un attimo, Robecchi. Lo dico sempre sia a Robecchi, Perrino, a tutti: se qualcuno vuole dire qualsiasi cosa di amichevole nei confronti del Movimento 5 Stelle, ditelo apertamente, che noi lo twittiamo, così vi facciamo passare una bella giornata. Sai, Perrino, che loro sono molto attenti a quello che ci sforziamo, ma loro non ce ne danno il destro, perché il Movimento 5 Stelle è latitante, l'unico merito che ha avuto. Aspetta che prendo nota, il Movimento 5, perché poi lo twittiamo bene per non cambiare il tuo pensiero. Il Movimento 5 Stelle è latitante. Sì, l'unica cosa positiva è che, positiva tra virgolette, ha in qualche modo inglobato il dissenso e ha evitato che il paese si riempisse, le piazze si riempissero, ma poi questa energia che gli è stata attribuita non mi pare che sia stata usata in modo costruttivo. Però modo per secondo. Farti passare la giornata un po' meglio dovresti essere un po' più duro, cioè sono falliti? Sono degli scoppiati? Mi sa che sono scoppiati, e so che sono oggetto di attenzioni e di OPA, come si dice in economia, da parte della Meloni, di Salvini e di un po' di movimenti a sinistra. Quindi sono un gruppo in disfacimento. Mi risulta che Grillo personalmente stufo e non ce la fa, che Casaleggio è acciaccato, e dunque mi pare che sia un'area su cui razzolare e sulla quale lo stesso Renzi si è mosso con grande spregiudicatezza, portando a casa una serie di ottimo. Tra poco lo riassumo tutto in un tweet durante il traffico, poi te lo leggo per correttezza e facciamo passare una bella giornata per Rino. Chissà poi se questo evitare che le piazze si riempissero è una cosa positiva, perché vedo appunto che in Grecia, in Spagna, le piazze si sono riempite e qualcosa si sta muovendo. Su questo sono d'accordo, cioè se hanno, cioè per carità, se si riempiono le piazze per fare manifestazioni pacifiche, parliamo di cose civili, ovviamente. Sarebbe stato positivo se questa energia fosse stata incanalata attraverso gli strumenti della democrazia verso un'opposizione costruttiva, fattiva, che portasse risultati. Invece è negativo, perché hanno solo surgelato le istanze sociali e se le sono portate in Parlamento nelle loro scorribande prive di senso. Adesso però io vorrei, su tutto questo, visto che alle 6.41 già qualche cosa nel piatto l'abbiamo messo, come si suol dire, avere un parere molto molto autorevole. Allora, dovete sapere che il nostro Andrea Radic, tanto l'ho presentato, è il più straordinario imitatore del presidente emerito, che è qui con noi a questo punto, Giorgio Napolitano. Che presidente, vorrei un parere sulla situazione attuale, un po' confusa. Ma il mio saluto vale innanzitutto agli operatori dell'informazione, che anche in queste ore del primo mattino accompagnano la popolazione nel dispiego delle notizie principali. Grazie Presidente. Per quanto riguarda la situazione attuale della politica, la mia preoccupazione è ovviamente forte e attenta, anche se posso finalmente dire che mentre c'è questa preoccupazione io posso serenamente spingermi fino al mercato rionale. E beh, giustamente, le piace, si può fare questa domanda, le piace il suo successore, Presidente? Sì. Di successore mi sembra complicato parlare, dato il tono e quel cambio di passo dato dal sottoscritto alla Presidenza della Repubblica. Insomma, il ragazzo si porterà bene e non abbiamo dubbi che l'istituzione verrà salvaguardata. Va bene, Presidente, la ringrazio. Poi magari prima della fine ci darà ancora un saluto. Questa è l'ora migliore per il banco del pesce. mi sembra effettivamente anche questa una delle attività più importanti da fare a quest'ora. E però alzandosi a quest'ora avrà svegliato la signora Clio. Non lo so se la signora Clio sta già fumando, sta già la quinta Marlboro. Grazie Andrea, un applauso, grande Andrea Razzi, straordinario, certo, ovviamente. Allora vi faccio sentire anche la taverna, siamo in area 5 stelle, visto che tra poco devo mettere il tweet di Perrino, intanto inizio già. Comunque Paola, il Movimento 5 Stelle sta realizzando il tuo sogno, uscire dall'euro è possibile, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto, firma anche tu. Eccolo lì, vedi Perrino, non stanno facendo niente, ci stanno facendo uscire dall'euro, raccolgo le firme e tu a dire niente, eh? Bravo. Vediamo, il grillo non è più parlante. Attenzione, sempre più dura la cosa. Allora, siccome io dovrei, Presidente, dovrei lanciare il traffico, mi fa l'onore per una volta di annunciare, scusi se la uso come annunciatore. Traffico. 24 mattino. Accecato, quelli dell'ISIS vogliono venire a Roma. Lasciamoli venire, che se gli vennemo la porchetta, questi rendono più della droga. Sono incavolato nero per un frontaliere che vado a lavorare in Svizzera e quando si sente alla radio che i frontalieri guadagnano bene, che abbiamo tutte le agevolazioni, mi viene una rabbia nello stomaco che non immagini. Perché? Perché gli svizzeri, al contrario degli italiani, fanno quello che vogliono, ci sottopagano, ci licenziano. Parlate un po' anche di questo settore. Quel signore lì, Alessandro, lo facciamo santo subito, no? Quel signore lì, lui e altri 14 hanno bocciato il referendum della Lega sulla infame legge sulle pensioni della Fornero. È così che pensa gli italiani. Ma la vogliamo smettere di applaudire i bei discorsi, le belle parole? Vogliamo una volta per tutte applaudire ciò che viene poi realizzato? Questo è l'applauso. Oliviero Toscani ha detto che noi altri veneti siamo la massa di imbriagoni. Coltime Oliviero, mi dopo un fiato di ombre posso anche tornare sobrio, ma ti credi stronzo, se stronzo e stronzo rimane. Questo era un editoriale, credo, che ci veniva, non so da dove. Perrino, tu hai riconosciuto il tipico dialetto, non so, del vicentino piuttosto che del veronese, del padovano, non lo so. Comunque ce l'avevano con Toscani, che la Zanzara ha detto che i veneti sono tutti ubriaconi. Allora, Perrino, vediamo un po' com'è la questione. Eccolo qua, ce l'ho qua. Allora, a Perrino, 24 mattino, il Movimento 5 Stelle è latitante, sono scoppiati, grillo e stufo, Casaleggio acciaccato, sono finiti. Rispecchia abbastanza il tuo pensiero? Finiti in politica e specificamente non c'è mai nulla di definitivo. La situazione è sempre grave ma non seria, come diceva Flaiano. Però, insomma, fibrillano fortemente. Va bene, allora lo tolgo, sono finiti, twittato. Sono finiti, dai, con lei. No, l'ho già twittato. Ah, vabbè. Per quello che contano i sondaggi, per quello che contano, per carità, stanno ancora verso il 19%, attenzione. No, ma infatti, però voglio dire, siccome vogliamo doppio di Forza Italia. Sì, ma siccome ne vogliamo far passare una bella giornata a Perrino, eccoci qua. Allora, però, parliamo anche un po' di attualità internazionale. Se noi avremo Gentiloni, ministro degli esteri alle 8:15, la questione è molto seria. Io, per carità, non si possono dare giudizi, ma quando leggo dei titoli, non so, dall'Egitto, no? Da Al-Azhar, la moschea di Al-Azhar, sono dei barbari questi che hanno bruciato vivo, scagniamoli e crocifiggiamoli e tagliamo loro gli arti, no? Adesso sì, Robecchi, pena di morte, ergastolo, ecco, per il cadavere, ecco, esatto. Cioè, voglio dire, e questo lo chiederò a Gentiloni: abbiamo secondo voi un problema noi occidentali di come rapportarci con civiltà che prevedono delle cose che noi non prevediamo più perché le abbiamo superate? Robecchi, non è una questione di religione, mettetela come volete, ma un parere vorrei su questo da voi. Ma sì, è un problema in realtà di democrazia e di quando alcuni valori, come quello della democrazia per esempio, diventano valori assoluti, perché assoluto vuol dire che tu poi lo devi difendere assolutamente, cioè in qualunque circostanza e condizione. E questo capisco che diventa difficile. Per esempio in Giordania oggi è molto difficile, d'altronde credo che abbiano risposto con un atto di guerra, e sappiamo bene che la guerra c'ha poco a che fare con la democrazia, e quindi sì, c'è, diciamo così in termine tecnico, uno strano incriccamento di valori. Sì, ma non solo un atto di guerra, proprio la violenza barbara, cioè dire risposta all'uccisione di questo soldato è e noi bruciamoli tutti, e hanno subito mandato a morte un paio di questi. Sì, ma sai, quando smette di parlare il cervello e incomincia a parlare la pancia, succedono quelle cose lì. Certo. Perrino, tu che ne pensi? Abbiamo un problema, perché poi è un problema che riguarda, visto che sono a poche miglia da noi, in Libia, sono a poche miglia da noi. Sì, mi sa che stiamo militarizzando il tutto, che le parole del ministro Gentili, visto che lui è gentilone, ho l'impressione che con l'avvicinarsi delle elezioni americane, col ritorno dei Bush alla carriera politica, tutto il pianeta debba assistere a un rinforzo della militarizzazione. Oh che bello, ci mancava forse, questo, ecco, una gran bella guerra globale. Di queste lobby che da sempre muovono perché dappertutto ci siano focolai di guerra e intorno al petrolio, ai suoi yo-yo si determinano poi le fazioni. In questo senso i fattori religiosi sono dei pretesti per chi poi governa le sorti del pianeta. Oramai la pubblica opinione comincia a capirli questi meccanismi e a prenderne le distanze. Anche perché l'attentatore, per dire, di Nizza, quello che tre giorni fa ha coltellato tre soldati francesi, ha fatto un attacco al centro ebraico, lo scrive Il Giorno, una settimana fa era a Roma, ecco, no, per dire che il mondo poi è molto globalizzato, siamo molto vicini. Proprio stamattina il nostro notiziario di Radio 24 ha raccontato di legami che stanno emergendo tra Osama Bin Laden e il mondo del petrolio, insomma, sempre più forti, sempre più nitidi. Dunque è il momento di dire basta, sembravano le teorie complottistiche, poi ci si unì Chomsky, che è il più grande linguista, a dire delle cose. Ora la storia, che poi è quella che ci restituisce la verità con obiettività e serenità, ci fa capire che anche la stessa vicenda di Charlie Hebdo, bisogna andare oltre, cercare dietro le quinte degli accadimenti. Non sapevo che fosse un complottista il nostro Perrino. No, non lo sono mai stato. Anche se i giornalisti per definizione devono valutare tutte le ipotesi. Però si sta delineando che c'è un governo mondiale che determina poi i flussi finanziari sul pianeta e noi ci sentiamo sempre più delle marionette. Allora, vogliamo sentire anche il Crozza che imita Mattarella per tornare alle cose italiane, così poi avremo il saluto finale anche del nostro presidente emerito Giorgio Napolitano, che oggi straeccezionalmente è venuto a trovarci qui. Allora, Mattarella, Crozza, Mattarella. Pensate che quando ero piccolo a scuola Ero così poco notato che i miei compagni mi appendevano i cappotti addosso. Questa è la più bella. Ero segnato la voce altri. Io, ero così non mi si notava che i compagni mi mettevano i cappotti addosso. Pensate, è una battuta del secolo di Crozza. Ma a questo proposito, l'ultimo minuto lo vogliamo dare con grande onore e gioia al presidente emerito, al quale chiedo di dire quello che vuole. Non mi permetto neanche di farle una domanda, presidente. Ma intanto ringrazio il giovane Milan di questa opportunità, nonostante io ormai abbia ben poco da dire nel panorama costituzionale. No, non dica così. Devo dire che i grillini li ho conosciuti, li ho frequentati, anche se ogni volta che si presentavano al Quirinale li bloccavano e dovevo scendere a prenderli personalmente. Vabbè, che non accedevano al cortile d'onore. Ah, non sempre, non alle sempre. Volte. Vabbè. Però quest'oggi pepata di cozze. Vabbè, ha trovato questo. I miei consiglieri, i miei giovani consiglieri, voi sapete che il più giovane ha oramai superato gli 80, ha trovato in avanti scoperta al banco del pesce delle cozze fantastiche, quindi oggi pepata di cozze. Allora, io nel ringraziare Alessandro Robecchi, il direttore di Affari Italiani Angelo Maria Perrino, troverete anche un video mio incredibile su Affari Italiani. Presidente, ci deve annunciare dopo il traffico, a questo punto il giornale radio, e ci ritroviamo per la rassegna stampa dopo, E ora giornale radio, viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Radio 24. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Alle 7:18 minuti siamo qui, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. E voi, non lo dico da un po' di tempo, razza di debosciati, come state, amici debosciati miei? Perché noi iniziamo alle 6:30, ma lo so che molti di voi si aggregano a quest'ora, con le vostri movimenti lenti ancora di prima mattina, Vi vedo a fare le vostre colazioni interminabili, bravi voi che potete, la mia, come dico spesso, è solo invidia. Allora, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi avremo ospite il ministro degli esteri Paolo Gentiloni alle 8:15. L'attualità impone, dall'ISIS ma anche all'Ucraina, ci sono scenari che ci inquietano molto. Parleremo con lui, come parleremo di stipendi vitalizi nella regione Sicilia. C'è una proposta di legge, indovinate quanta strada farà per ridurli questi vitalizi. No, ma ci vuole ottimismo. Allora andiamo a leggere questi giornali. È giovedì 5 febbraio, i titoli intanto. Il Sole 24 Ore apre sul tema Grecia, che è il tema economico, finanziario, geopolitico più importante in Europa e non solo. Stop di BCE e Berlino al piano di Tsipras, questo è il titolo di prima pagina. Anche il Messaggero apre così: la BCE taglia i fondi alla Grecia. E invece la politica italiana, il patto del Nazareno è rotto, non è rotto, è morto. Risorgerà il Nazareno, chi lo sa, ci avevano insegnato fino a quando eravamo piccoli che il Nazareno risorge. Vedremo in questo caso, per questo volgare patto rispetto all'altro Nazareno. Corriere della Sera, Forza Italia nel caos, patto rotto. Repubblica, caos Forza Italia, addio patto, Renzi, andiamo avanti da soli. La Stampa, salta il patto per le riforme, il PD meglio così. Libero, Renzi il bullo non sta più sereno, sepolto il patto nel Nazareno. Il Giornale, liberi tutti, la fine del Nazareno. Ovviamente magari tra due giorni leggeremo i titoli, il Nazareno c'è ancora, state tranquilli, la politica italiana va avanti così. Il Fatto Quotidiano, prima applaudono Mattarella, poi bloccano l'anticorruzione. Questa è la denuncia di prima pagina.

è uno strumento, una minaccia che rischia di infiammare ulteriormente, come si vede la situazione del Mediterraneo, del Medio Oriente, che quindi ci minaccia direttamente. Da questo punto sì. Infatti, a proposito di minaccia, mi ha molto colpito il settimanale L'Espresso, che la scorsa settimana ha scritto: sono sbarcate in Italia 170.000 persone, 100.000 di queste sono fuori dal nostro controllo, non sappiamo più dove siano. Le chiedo, le nostre coste sono sicure, le nostre frontiere? Ma le nostre coste sono 8.000 chilometri. L'idea che si possano mettere degli steccati, dei recinti per impedire le emissioni è un'idea non solo assurda dal punto di vista tecnico, ma anche folle dal punto di vista umanitario. Il punto semmai è che le operazioni che l'Italia sta facendo di sorveglianza nel Mediterraneo e anche di salvataggio e di recupero di vite umane quando sono in pericolo devono essere sempre di più un onere non solo italiano ma europeo. Dobbiamo smettere di immaginare che il problema delle migrazioni sia un problema italiano, greco, spagnolo o francese, è un problema dei 28 paesi dell'Unione Europea. C'è un inizio che si chiama Operazione Triton, ma bisognerebbe rafforzare molto questa iniziativa. Però il controllo nel momento in cui sbarcano spetta a chi è lì, e in questo caso siamo noi. Cioè, le ripeto la domanda, noi controlliamo tutti, siamo sicuri di tutti coloro che sbarcano? Certamente noi controlliamo i rischi dal punto di vista del terrorismo, certamente identifichiamo i migranti, dopodiché sappiamo benissimo che lo spazio di movimento all'interno dell'Unione Europea è uno spazio di movimento aperto, quindi è proprio per questo che io dico, ma del resto gli altri paesi europei lo sanno perfettamente, che se c'è uno stato fallito a poche ore di navigazione dall'Italia, che si chiama Libia, e attraverso questo stato l'anno scorso arrivano 145.000 migranti, il problema non è soltanto un problema italiano, perché poi questi 145.000 arrivano in più Europa, certo. Altri 15.000 che sono arrivati da altre parti diverse dalla Libia e si spostano, no? E non ecco, è che li possiamo mettere tutti in carcere. Su questo spostamento li rimandiamo in Libia. Certo, il tema è stato affrontato nei giorni scorsi, sa che ci sono forze politiche che chiedevano la sospensione del trattato di Schengen. Questo tema è mai stato in discussione? In Europa si sta discutendo di un'altra questione, che è la questione di come rafforzare i controlli, soprattutto del traffico aereo, ma in generale i controlli nella frontiera, chiamiamola così, esterna tra l'Unione Europea e il resto del mondo. Rinunciare invece alla libertà di circolazione, alla libertà di movimento all'interno della zona europea, sarebbe rinunciare a uno dei tre o quattro pilastri fondamentali dell'Unione Europea, mentre se si discute di rafforzare la frontiera esterna, l'Italia è assolutamente d'accordo e l'Italia è assolutamente d'accordo nel risolvere le difficoltà che ci sono, soprattutto nel Parlamento Europeo, per approvare delle normative che consentano una identificazione unica tra i 28 paesi dei passeggeri aerei. Sì. Perché noi invece di parlare, secondo me, di abolizione di pilastri fondamentali delle nostre libertà, dobbiamo mettere in atto delle misure concrete, tipo l'identificazione unica dei passeggeri tra i diversi paesi europei, che ci aiutano davvero sul piano della sicurezza, senza rinunciare alle nostre libertà. Però queste libertà comportano anche ovviamente dei rischi. Oggi i giornali raccontano che l'attentatore che a Nizza ha colpito, ferendo tre poliziotti francesi, era a Roma una settimana prima. C'è anche tanto di foto di controllo col passaporto. Lo scrivono Il Messaggero, lo scrive il Quotidiano Nazionale. Ne eravamo al corrente, per esempio, che si fa in questi casi? Ma normalmente tra servizi di intelligence ci si scambiano informazioni. Naturalmente quello che ci deve fare più riflettere è il fatto che la persona in questione fosse all'attenzione dei servizi di intelligence francesi da anni e ciò nonostante abbia compiuto quel tentativo di strage che ha compiuto. Ora naturalmente è un fatto di numeri, noi anche, no? Cioè, per questo la sfida è anche una sfida politica, a ridurre l'entità di questo fenomeno, a isolare gli estremisti terroristi dalle comunità islamiche. Non possiamo immaginare di essere sicuri se questa minaccia trova spazio in centinaia e centinaia di giovani in alcune periferie di alcune metropoli europee, e per fortuna per il momento non parlo dell'Italia. Quindi certamente controlli, certamente misure più concrete tra i paesi europei per identificare il rischio terrorismo, ma moltissimo anche una battaglia politica, culturale per isolare i terroristi e non identificarli con l'Islam. Però, ministro Gentiloni, siccome i controlli ci vogliono, le chiedo perché questo decreto antiterrorismo annunciato subito dopo Parigi è slittato 3 volte in Consiglio dei Ministri. Qual è il problema? Ma i problemi sono stati di messa a punto, di coperture, soprattutto per la parte delle missioni militari che è compresa o comunque accompagna questo decreto, ma penso che sia, si so che è tutto pronto e che verrà approvato nel prossimo Consiglio dei Ministri. Quindi in settimana? Cioè, in settimana, il prossimo Consiglio sarà, sarà domani? Il Consiglio dei Ministri non è ancora convocato. Non è domani, è in genere venerdì, sarà settimana prossima, in genere ogni settimana. Sì, sì, ma insomma il prossimo Consiglio dei Ministri verrà varato il pacchetto. Verrà varato questo pacchetto, no, perché l'urgenza ovviamente del tema c'è, gli italiani si chiedono sulla sicurezza. A proposito di Libia, lei ha detto uno Stato fallito, come è così. Forse sbagliamo a intervenire con Gheddafi militarmente, ma questo è il passato. Non è il caso di intervenire militarmente ora? Ma sicuramente sì, se le condizioni politiche lo consentiranno. Non si può intervenire per intervenire, del resto lei prima citava la vicenda di 5 anni fa e ci si può interrogare sull'intervento di 5 anni fa, ma più che mai in una situazione come quella attuale, in cui non esiste uno Stato centrale, in cui ci sono diverse fazioni che si combattono, il punto è se, grazie all'iniziativa diplomatica delle Nazioni Unite, si ricostruisce un minimo di percorso di ricostruzione nazionale. In questo caso io credo che il governo proporrebbe immediatamente al Parlamento di partecipare a una missione di peacekeeping delle Nazioni Unite. Ma finché non c'è un quadro anche minimo di ripresa di dialogo, di cessazione dei combattimenti, credo che non si può. Nessuno mandi delle forze armate in mezzo al deserto libico senza alcuna base politica. Questo certamente. Senta, le chiedo questo, Gentiloni, lei è un giornalista, insomma, è stato giornalista per tanti anni. Da giornalista le chiedo, lei le avrebbe pubblicate, le pubblicherebbe le vignette famose di Charlie Hebdo, quelle che hanno generato anche un grande dibattito? Ma io sì, perché penso che ci deve essere un limite naturalmente alla realpolitik, e questo limite è costituito dalle nostre libertà fondamentali, e una delle libertà fondamentali è la libertà di espressione. Cioè, noi naturalmente sappiamo benissimo che questa accezione delle libertà è nostra, è della gran parte dei paesi europei ed occidentali. Non possiamo immaginare automaticamente che sia vissuta allo stesso modo in tutti i paesi del mondo, il che non vuol dire però, e quindi certamente ci sono milioni di persone che possono sentirsi offese da quelle vignette, come ci sono milioni di persone nel mondo che ritengono giustificata la pena di morte, come ci sono purtroppo violazioni dei diritti delle donne, delle minoranze, eccetera, ma noi alle nostre libertà credo non dobbiamo rinunciare, perché il mondo è pericoloso e complicato, sarebbe un errore a mio parere fatale. Le chiedo anche su un altro fronte, ovviamente non abbiamo molto tempo, ma quello dell'Ucraina che sta molto molto inquietando. Senta, Ministro, negli Stati Uniti anche il nuovo e futuro capo del Pentagono ha lanciato e sta facendo crescere l'idea di armare l'Ucraina, cioè mandare armi all'Ucraina contro i separatisti russi. È la soluzione giusta? Io non credo di no, certamente non è comunque una soluzione che possa coinvolgere minimamente l'Unione Europea o il nostro Paese, e quindi se la domanda riguarda ciò che può fare l'Europa o ciò che può fare l'Italia, la risposta è un no secco. Se il tema è giusto o meno porsi il problema di armare l'Ucraina, tutti possono porre il problema, ma sicuramente la soluzione non è quella di fornire armi all'Ucraina. Noi dobbiamo rassicurare anche sul piano militare gli stati che fanno parte della NATO, sono gli stati baltici, quelli che si sentono minacciati in quell'area, e anche l'Italia sta partecipando ai pattugliamenti aerei nei cieli del Baltico, perché questo prevedono i trattati della NATO. Ma non dobbiamo, io credo, far altro che imporre ai separatisti ucraini di dismettere i loro atteggiamenti aggressivi e chiedere anche con lo strumento delle sanzioni alla Russia di esercitare la sua influenza per impedire che i separatisti continuino negli atteggiamenti aggressivi. Questa linea sta funzionando, nel senso che certamente ha prodotto dei danni nell'economia russa, non bisogna tuttavia chiudere gli occhi di fronte al fatto che sul terreno la situazione è molto pesante, molto grave, e quindi purtroppo non c'è spazio oggi per fare marcia indietro sulle sanzioni. Le sanzioni sono lì e devono purtroppo esercitare la loro funzione di deterrenza. L'altra questione che chiedo e ho sempre chiesto a tutti i ministri degli esteri in questi anni è la questione dei Marò. Devo dire che è una questione talmente intricata, però la domanda la faccio a lei: ma quando finirà questa vicenda, al di là della questione processuale, cioè quando torneranno tutti e due a casa? Ma certamente è una vicenda dolorosa, complicata, insomma, ormai siamo vicini ai 3 anni da quando la vicenda è cominciata. Io credo che negli ultimi mesi si sia aperto un filo di dialogo e di contatto tra i due governi che deve portare a una soluzione definitiva del caso. Però tempi non se ne possono fare, purtroppo non... Ma in queste vicende politico-diplomatiche è sempre meglio non fare tempi, non fare previsioni. Io, nel ringraziarla, Ministro, la questione del riscatto, come vede, non gliel'ho più chiesta, tanto a questa domanda diretta io lo so che un ministro degli esteri non può rispondere, cioè è stato pagato il riscatto. Quante volte le avranno fatta questa domanda così secca sulla questione di Greta? Ma io dico semplicemente che l'Italia ha sempre avuto la stessa politica negli ultimi 10-15 anni e che questa è la medesima politica che seguono, con scarsissime eccezioni, tutti i paesi occidentali. Che può essere letta come dire pagano tutti. Può essere basta guardare quello che è accaduto nel 2014, cioè il fatto che oltre a due giovani italiane sono stati liberati nella stessa identica zona della Siria altri 9 ostaggi occidentali. E naturalmente sono operazioni di salvataggio di vite umane su cui l'Italia, come qualsiasi altro Stato democratico, ha tutto il diritto ed ha il dovere di mantenere il riservo di Stato. La ringrazio, Ministro, per essere stato con noi. Paolo Gentiloni, grazie, Ministro degli Esteri. Dopo la pubblicità invece cambieremo tema. parleremo di che cosa? Di Sicilia, di vitalizi in questo caso. Sapete che ci sono 20 persone, l'elenco è stato pubblicato dall'Assemblea regionale siciliana, 20 persone che prendono un doppio vitalizio perché lo stipendio non si può accumulare, cioè se uno è deputato siciliano non può essere, non può prendere anche uno stipendio da deputato nazionale, non può neanche esserlo. Ma i vitalizi invece sì, si possono accumulare. Ci sono 20 persone. C'è una persona, invece, il capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale, che proporrà, lo ha già fatto in vano in passato, e lo vuole riproporre, una legge per ridurre i vitalizi. Ce la faranno? Chi lo sa. 24 mattino. Eccoci qua, allora alle 8:39 minuti, come vi ha detto, spesso si dice, si legge sui giornali, Sicilia, isola del Bengodi, per quel che riguarda anche i costi della politica, Bengodi soprattutto per chi gode di questi assegni. Ieri Repubblica parlava anche, raccontava delle 20 persone pubblicate dall'Assemblea regionale siciliana che godono un doppio vitalizio, ex deputati, perché si deve dire deputati per l'Assemblea regionale siciliana, ed ex deputati nazionali o senatori del Parlamento invece di Montecitorio Palazzo Madama, e quindi due vitalizi. C'è qualche nome, magari qualche nome lo diremo. Intanto voglio salutare il capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana, si chiama Marco Falcone. Buongiorno onorevole Falcone, eccoci qua. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Allora, lei ha tentato, perché l'ha fatto anche in passato credo, e tenterà di proporre un disegno di legge per ridurre i vitalizi, quantomeno. Quant'è la cifra che lei ha stabilito congrua per un vitalizio? Ma guardi, intanto il tema è che in un momento di grande emergenza sociale ritengo che sia opportuno che determinati privilegi, chiamiamoli così, perché oggi sono tali, non si giustificano più, e quindi la classe politica deve dimostrare un senso di vicinanza a una situazione di disagio sociale, dimostrando anche, facendo qualche sacrificio. Quindi in questo senso stiamo lavorando, e presenteremo la settimana prossima un disegno di legge che riveda i trattamenti pensionistici, o meglio i vitalizi dei deputati, in linea tra l'altro con quello che noi abbiamo fatto quest'anno trascorso, cioè nel 2000, alla fine del 2013, a iniziare dal 1 gennaio 2014, col quale abbiamo eliminato il sistema del vitalizio per passare a un sistema contributivo, cioè, come tutti gli italiani, in base al pagamento dei contributi previdenziali. Cioè vi siete adeguati, diciamo così, alla riforma Fornero. Quando è la nostra pensione attualmente? Mi dica quanto sarà? Cioè, quando uno fa una legislatura, diciamo 5 anni? Allora le dico subito, la legge 1 del 2014 prevede un sistema contributivo, per cui io le dico che se un deputato fa una sola legislatura, un deputato regionale avrà un'indennità di 420 euro mensili a 65 anni. Se ne fa due ne avrà poco meno del doppio a 60 anni però. Ma non crede che sia giusto, cioè nel senso che forse era prima sbagliato? Sì. È normale. Chi, d'altronde, se uno fa un lavoro 5 anni è chiaro che non può avere una pensione come quelle. Però allora lei ha stabilito credo 5.000 euro può essere il... No. Abbiamo noi detto una cosa, abbiamo il nostro disegno di legge poggia su tre punti cardine. Sì. Il primo, tutti i vitalizi superiori a 5.000 euro, noi vogliamo tagliare per il 50% la somma eccedentaria. Okay. Siccome sono tantissimi al di sopra dei 5.000 euro, e allora abbiamo fatto un calcolo che tagliando il 50% avremo un risparmio di circa 1.200.000 euro annui. Ma perché togliere solo il 50% di quello che supera i 5.000? Non si poteva dire 5.000 e poi guardi, basta. Lei ha ragione rispetto a pensioni da fame, 500 euro mensili, ci sono le pensioni sociali, ma anche i dipendenti dopo una vita di lavoro, 40 anni di lavoro, percepiscono appena 1.000-1.200 euro, e in una città non è facile vivere con questa pensione, mentre magari è facile vivere nell'entroterra, in un piccolo paese e così via, dove ci si accomoda un po'. Ecco. Però c'è un problema, sono i diritti quesiti, i cosiddetti diritti quesiti, che possono essere che possono essere superati in due situazioni particolari. Uno, che è l'emergenza sociale che vive oggi, che mi sembra ci sia, e poi eventualmente per rafforzare la possibilità che la norma non venga impugnata, perché come succede sempre potrebbe, in altre regioni è successo, in Lombardia abbiamo raccontato che ci sono i consiglieri, ex consiglieri che hanno fatto ricorso, però che purtroppo non ci si rende conto che il clima è cambiato, che è cambiato il mondo, che dal 2007 al 2008 è cambiato il mondo. Io che sa cosa dicono gli ex consiglieri in genere quando si vuole toccare appunto i vitalizi? Comincino prima gli attuali consiglieri. Allora lei dice bene, infatti non a caso io le ho detto che io sono in assemblea regionale dal 2008. È chiaro, dal 2008 percepivamo un'indennità, oggi è dimezzata l'indennità rispetto al 2008, ma in più noi nel 2011 facemmo la prima riforma previdenziale proprio per i nostri trattamenti, e oggi invece nel 2014, io sono stato poi rieletto, nel 2013, all'inizio del 2014, proprio abbiamo ridotto drasticamente, Per questo avverbio è importante sottolinearlo. Però le chiedo questo, Falcone, potete fare nulla, mi sembra che nel vostro disegno di legge non c'è nulla riguardo ai doppi vitalizi, alcuni nomi sono usciti ieri. Diciamo alcuni nomi, i tre punti cardini, i tre punti, prima abbiamo detto quindi somme, il 50% della somma eccedentaria rispetto ai 5.000 euro, il 50% nel caso del vitalizio, dell'ARF, nel caso in cui si è in godimento di due indennità. Quindi le tagliate di metà il vitalizio dell'ARF. Io non escludo che qualcuno sia addirittura titolare di tre indennità. Ah, che bello. Regione, Parlamento, Stato e Europa. Quindi regionale siciliana, Parlamento nazionale ed Europarlamento. Quindi me lo trovi, prego, me lo trovi, me lo faccia sapere, che noi lo chiamiamo per sapere come si vive con tre pensioni. Deputato, non faccio il delatore. Mi sembra una doverosa denuncia sociale. Proprio oggi sono impegnato nella mia attività professionale, quindi io vado per difendere, non per accusare. Io sono lei fa l'avvocato? Faccio l'avvocato. Fa l'avvocato. No, perché lo ricordiamo, per esempio c'è Emanuele Macaluso, Vladimiro Crisafulli, Sergio D'Antoni, Nicolò Castaldi, Pino Ferrarello. C'è l'elenco di quelli che prendono due deputati. Una domanda retorica voleva fare. Però quello di tre mi manca. Quello di tre vitalizi mi manca. C'è qualcuno. Impegnate in un'attività anche investigativa. Ormai c'è questo giornalismo di inchiesta che in alcuni casi eccede, in altri casi invece chiarisce dà un senso concreto alla realtà, e questa, come dire, la parte che... Però mi faccia capire, Falcone, settimana prossima presenterete questo disegno di legge. Che speranze l'ultima avete? Cosa, che speranze avete? L'ultima cosa, terzo pilastro, dobbiamo dire. Il problema della pensione ai superstiti, lei non ha parlato di questo, dovrebbe dire la cosa anche più interessante. Che vuol dire superstiti? Ma lei lo sa, ai superstiti il deputato muore, rimane la moglie. C'è la reversibilità. Ancorché rimanesse la moglie, rimangono anche i figli, in alcuni casi. Ma lei lo vuole sapere che ci sono ben 8 deputati che percepiscono superstiti, superstiti deputati, che percepiscono il vitalizio dalla prima legislatura. Dalla prima, 60 anni fa, le immagini quanto costano. Chi erano figli di prendono la reversibilità. Addirittura anche figli quando sono figli disabili. Cioè, quindi prendono, la reversibilità loro e quella come figli. E allora, non soltanto questo. E non mi vuole dire neanche questi chi sono. Ma guardi, sono pubblicati. Mi risparmi da questo. No, vabbè, ma senta, le chiedo anche questo. Già sono stato abbastanza criticato. Ma infatti, Falcone, ci vogliono i numeri, che speranze ci sono di far passare una roba del genere? Le dico che i numeri noi riteniamo di poter proporre un atto di buonsenso. Quando ad esempio per i vitalizi ai superstiti noi diciamo che debbono passare dall'80 al 60% e in alcuni casi, guardi, arrivano anche al 100%, io non credo che sia una norma canaglia, ma è una norma di buon senso. Lo so, per lei sì, per lei sì. In un momento particolare come questo, e allora, deve passare però, deve convincere i suoi colleghi. Allora, siccome oggi noi vediamo certa sinistra che è molto brava, il nostro presidente della regione è molto bravo a parlare, ad annunciare. Dice, faccia questa legge, cioè provi, faccia approvare questa legge. Noi la mettiamo all'attenzione di tutti i colleghi, vedremo chi la vorrà approvare e chi invece si rifiuterà. Va bene, un'ultima cosa le chiedo, lei è stato tra i grandi elettori, ha eletto Mattarella. Io ho votato scheda bianca, ha eletto Mattarella, era un modo abbiamo partecipato alla elezione del nuovo presidente. Capo dello Stato. Sarà contento però, che almeno è siciliano, almeno sì, questo. Voglio dire, è una persona assolutamente stimabile, di assoluta caratura professionale, istituzionale, giuridica. Guardi, alla fine noi potevamo anche arrivare al nome del presidente Mattarella se da parte del segretario nazionale del PD ci fosse stato un atteggiamento meno tracotante. Invece anche lei atteggiamento che le devo dire che comunque secondo me sarà un boomerang nelle prossime settimane. Per il momento è un boomerang un po' in Forza Italia, che è un partito un po' in Forza Italia abbiamo un partito un po' lo sbando per certi versi, chiamiamolo poliedrico. Lei cos'è? Fittiano, attestivo, berlusconiano, verdiniano, brunettiano? Io sono Forza Italia io da sempre, dal 94. Ma ho capito, da Alleanza Nazionale ho votato sempre per un candidato, allora si votava col Mattarellum per rimanere sempre in tema il presidente, e io votavo nel mio collegio, mi capitava un candidato di Forza Italia, quindi voglio dire Ma adesso lei chi è? Si schieri? Sono vicino al presidente Berlusconi. Berlusconi, perfetto. La ringrazio, avvocato e onorevole Marco Falcone. Grazie lei, capogruppo di Forza Italia all'ARS. Vedremo se questo disegno di legge per ridurre i vitalizi, con un meccanismo un po' complicato, che però ci ha spiegato molto bene, sarà efficace dalla prossima settimana. 24 mattino. Allora, siete pronti? Ieri abbiamo avuto questo straordinario racconto dal Perù, dalle Ande, di un nostro ascoltatore che è lì per il Club Alpino di Verona, sta facendo un rifugio a Lima, sulle Ande, ci telefonava da un paese che non oserei ripronunciare. Ma come sapete ogni giorno invitiamo un ascoltatore che ci segue dall'estero e oggi voglio salutare Sandro. Sandro, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Dove sei? Sono in Italia. Io sono a Basilea. A Basilea, quindi sei a due passi da noi, sei in Svizzera. Sì, però Svizzera, se c'è un paese così vicino a noi, ma secondo me così lontano da noi per alcuni aspetti, non so, tipo la politica per esempio, questa è la Svizzera. È la Svizzera. Purtroppo devo subirmi quotidianamente le battute sulla politica italiana. Fantastico. Sandro, ma tu sei, fammi capire, italiano, italo-svizzero? Io sono nato a Basilea, però all'età di 8 anni sono emigrato con i miei genitori in Italia, quindi ero piccolissimo. Ti senti proprio svizzero? Sei svizzero, insomma, sei nato a Basilea. Io adesso devo dire che qua in questo momento mi sento più italiano. Cioè sei italiano in Svizzera e svizzero in Italia. È successo che finché ero piccolo mi sentivo veramente come uno svizzero in Italia e adesso mi sento come un italiano in Svizzera. Che fai di bello a Basilea, Sandro? Io sono architetto e lavoro presso uno studio di architettura qui a Basilea, uno studio Fischer Architects. Ok. E uno studio di 40 più o meno dipendenti. E ci segui? Ci segui in streaming? Seguo quotidianamente in streaming alla mattina, quando invece vi perdo poi in podcast alla sera, di addormentarmi, perché una delle cose che mi mancano ovviamente è la lingua italiana. E noi, come si sa, conciliamo sempre molto bene il sonno. No, non c'è problema. Sandro, ti chiedo questo, cos'è la cosa più strana che gli svizzeri, parlando con i tuoi colleghi, con i tuoi amici, percepiscono dell'Italia? Qual è proprio la cosa che è più inconcepibile per voi? È inconcepibile, allora, ovviamente l'Italia ha un brand, cioè voglio dire, l'Italia è vista come moda, come alimentazione, come cibo, è imitata in tutte le maniere, tant'è che tante volte sono dei negozi qua che hanno dei nomi di fantasia che suonano in qualche modo italiano, ma che poi in realtà non sono italiani, quindi un'imitazione d'Italia. E dall'altra parte dicono, ma com'è possibile che in Italia ci sia un po' questa inefficienza, no, generale. Cioè, si chiedono quello che si chiedono molti italiani: com'è possibile che tutte le ricchezze che abbiamo non riusciamo a valorizzarle, poi no, rimangono un po'... Ma sì, perché cioè, la superficialità forse può essere un motivo, forse questo senso leggero del vivere, e quindi non si dà peso a tante cose. Mentre qua, ovviamente, qua l'efficienza è veramente proverbiale. Se posso farti un piccolo esempio, lunedì sono andato per farmi cambiare la patente all'una e ieri mattina era già la patente nuova nella mia cassetta della posta. E ecco, quindi, ecco. Io questo è... questo non credevo i miei occhi. Anche tu poi, nato quando, a Basilea, poi, dici. Poi? Poi quando volevo, sì, per pagare, mi ha detto, ma pagherà quando vuole, insomma, non ci sono problemi, non è che... Tanto dove scappa, Sandro? Insomma, ma ci sarebbero tante cose da dire. Dimmi un messaggio finale che dobbiamo chiudere. Un messaggio finale all'Italia è che faccio toi, questo sì, e tocco legno, come si dice qua, nel senso che questo porta fortuna, porta, perché l'Italia ha bisogno di fortuna, bisogna tante risorse, secondo me eccezionali. Iniziamo così, dal toccare legno. Sandro, ti ringrazio e saluto te, come ringrazio Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Lorenzo Nespoli in redazione e il nostro Carmelo Lauricella in regia. Ma devo chiudere, ci sentiamo domattina 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.